e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora, abbiamo superato il periodo più difficile. Sì, ma io lo sai che ancora non sono fuori dal tunnel questa settimana. Infatti non siamo completamente fuori, non parlo di guai, ma di influenza. Il picco è stato raggiunto e finalmente il numero dei contagiati sta diminuendo, ma attenzione agli ultimi colpi di coda, soprattutto al virus intestinale che sta mettendo KO molti italiani. È una lieve forma di gastroenterite, i sintomi si riconoscono facilmente: fitta al basso ventre, nausea, vomito, diarrea frequenti, febbre. Allora, se siete alle prese con questi disturbi, restate, c'è posta per voi. Ci sono rimedi fitoterapici che potrebbero aiutarvi a superare questo momento un po' critico o almeno debilitante, ma non è solo l'influenza, e lo sappiamo bene, a mettere in difficoltà la nostra pancia, che può essere tesa, dolente, gonfia, irritabile per altre ragioni. Le scopriremo insieme partendo dal vostro caso. E a proposito di pancia, se il nostro programma Meno Pancia Più Salute vi alluzza, seguiteci perché ci sono dei ripescaggi in programma. Notiziona, attenzione. Allora, il mal di pancia, per chi questa settimana avesse provato a farselo passare per l'influenza, glielo faccio tornare io. Brava. Nella seconda parte del programma. Così devono sempre seguirci. Esatto, non proprio, devono stare incollati con le cuffie alla radio. Allora, noi oggi, è giovedì, lo sapete, ritorniamo con Investire Informati, la nostra rubrica dedicata al risparmio. Torniamo ad addentrarci nel mondo del risparmio postale, che teoricamente dovrebbe far star tranquilli tutti gli italiani che sottoscrivono prodotti presso un ufficio postale, appunto. È una tipologia di risparmio molto popolare. Non lo ha reso però tanto popolare la vicenda che negli anni passati ha visto alcuni cittadini risparmiatori che avevano investito in un buono fruttifero e che poi, quando era il momento di farselo liquidare, raggiunta la scadenza, aveva questo un valore molto inferiore a quello che si aspettavano. Ne abbiamo già parlato, ma oggi ci ritorniamo, perché per noi ogni giorno c'è una puntata nuova per tante vicende, perché c'è una notizia, appunto, che abbiamo letto sui giornali in questi giorni. Nel passato alcuni tribunali hanno dato ragione a questi risparmiatori e quindi si sono riconosciuti il diritto a vedersi rimborsare tutto l'importo naturalmente investito. In questi giorni invece altri tribunali stanno decidendo con un orientamento diverso, per cui 800 24 00 24, se naturalmente siete interessati al tema dei buoni fruttiferi postali della discordia, vi aspettiamo con Investire Informati. Mamma mia, che mal di pancia, ma che mal di pancia, nausea, vomito, diarrea e tanto per gradire anche qualche linea di febbre. Della serie non ci facciamo mancare nulla. Ma qualche linea? Se state... con la botta che ho avuto martedì, guarda. Allora, se state combattendo con il virus intestinale, noi lottiamo con voi. Ci sono dei rimedi naturali che ci possono venire in aiuto, pronti a prendere nota. Fatelo anche se non siete influenzati, può sempre servire. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Paolo Vintani, farmacista, vicepresidente di Federfarma Provinciale ed esperto in fitoterapia. Buongiorno dottor Vintani e bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dottore, questa influenzina, che è una lieve forma di gastroenterite, è davvero debilitante. Ci si sente uno straccio, ci vuole un piano, direi un contrattacco che ci aiuti da un lato ad alleviare i sintomi e dall'altro ci dia una mano a ristabilirci. Iniziamo dal mal di pancia, che si associa in questa forma spesso a anche a nausea e diarrea. Partiamo, mal di pancia e diarrea. Sì, la forma gastrointestinale è quella che sta prendendo molto in questo periodo e da un po' di anni a questa parte, è decisamente debilitante. È un classico di stagione, insomma, dottor. È un classico di stagione legato a fattori batterici o virali, ma anche a fattori di freddo, colpi di freddo, certo, senza cappotto e così via. È sempre opportuno non sopprimere il sintomo, perché se di natura batterica o virale deve essere eliminato. Però la somministrazione di fermenti lattici, di lattobacilli che ripristinano la flora intestinale è importantissima, è della prima azione. Ecco, ma verso quali ci orientiamo? Deborah infatti fa sì perché è preparata. ho già proceduto. Allora, ma perché ci dà delle indicazioni? Senz'altro, dei probiotici, sono importanti i probiotici, è utile anche l'enterococcus in particolare, che va ad agire sulla flora intestinale direttamente su questi disturbi. Un'altra cosa importante, se parliamo di prodotti naturali, qualora continuasse si può assumere un decotto di Tormentille Recta, è una pianta che ha una sone fortemente astringente. Hai visto? Ma non la conoscevo questa, mannaggia. Va bene, ma noi abbiamo fatto studiare il dottor Mintani apposta, lui studia per noi. Ha preso appunti per me. Tormentilla erecta, è il nome è legato all'aspetto della pianta, cioè che è dritta come un fuso, però in effetti contiene molti tannini, quindi ha un'azione fortemente astringente ed è un ottimo antidiarroide. Tormentilla, il nome non è tanto una garanzia, no? Però tormentilla ci darà sollievo. Veniamo alla nausea, dottor Vintani, perché no, c'è questa sensazione un po' di nausea, di pienezza, sì, amaro in bocca, ecco. Cattivo cosa. Senz'altro un rimedio che riprendo dalla medicina cinese, lo zenzero fresco, in particolare in medicina cinese si divide lo zenzero fresco dallo zenzero secco. Lo zenzero fresco, che si può mangiare tranquillamente masticandolo pochi pezzettini, lo si trova da fruttivendolo anche, ha un'ottima azione antinausea. Senta, dottor Vintani, vale anche quello candito? Direi di no, perché troppi zuccheri. Lo so che sarebbe stata una cosa gradevole, ma è preferibile quello non candito. Neanche con il sushi accanto, mi raccomando. O quantomeno solo il riso, non il pesce. Allora, qualche linea di febbre. Deborah dice la febbre può arrivare anche a superare i 38 e 39, esatto. Ma per la febbre ci suggerisce qualche rimedio o invece lasciamo che questo segnale... La febbre è un segnale che deve essere lasciato andare, io uso questo termine. Fino a 38 di febbre è il nostro organismo che reagisce fisiologicamente, perché 38 gradi ammazza i batteri, sì. E quindi è corretto. Ricordo alle mamme di mettere il ghiaccio dietro la nuca del bambino, non sulla fronte, perché mi regola le possibili convulsioni. Poi è una tendenza, e soprattutto tenerli scoperti questi bambini con la febbre, non coprirli troppo. Si può assumere l'ottima echinacea, che ha un'attività immunostimolante, è una bellissima pianta dai petali viola, e si può prendere in tintura madre, che sono delle gocce. Dottore, quindi echinacea per la febbre, ma ecco, adesso proviamo a pensare al dopo, a rimetterci in forma, perché questa influenza dura pochi giorni, ma ci lascia uno straccio. Allora, dottor Vintani, poi al lavoro bisogna tornare e quindi un tempo c'era un po' la convalescenza, almeno nei bambini. Adesso invece anche i bambini, superato il periodo acuto, vengono naturalmente mandati a scuola o all'asilo. Come si affronta il dopo influenza per riprendersi un po'? Rimanendo sempre in tema naturale, senz'altro per i bambini, soprattutto pappareale e l'eutrococco, che è una pianta che è il ginseng siberiano, che è un cosiddetto adattogeno, sì. Che mi prepara a riaffrontare la vita quotidiana. E esistono in varie forme, come fialette da bere, che sono ottimi. Un prodotto interessante è anche l'astragalo, che è sempre dalla medicina cinese, che è un ottimo ricostituente, si trova in bustine solubili o in tisane. L'astragalo, che in cinese si dice wan qi, è molto esotico. Wan qi. Ecco, un po' meglio della tormentilla. Un po' meglio della tormentilla. Mi sono rifatto col wan qi. Dai, dottor Vintani, ma per quanti giorni almeno una quindicina di giorni post-influenzali. Allora, vedi, so tutto per te, Deborah. Adesso sei nelle mie mani. Ti manca solo di farmi la ricetta e poi oggi pomeriggio vado in farmacia. Allora, dottor Vintani, la ringraziamo per essere stato con noi. Grazie a voi. Lei ha avuto l'influenza, molto. Dottor Vintani? Non me la sono potuta permettere, cioè l'ho dovuta fare in piedi in farmacia. Comunque sì, qualcosina sì, ho già dato. Grazie, dottor Vintani, alla prossima. Grazie a voi. Buon lavoro. Non è solo l'influenza a mettere in subbuglio la nostra pancia, che può darci non pochi problemi, dolore, gonfiore, tensione. Devo continuare? No, li conosciamo bene tutti questi sintomi, che possono venire da soli, all'improvviso, presentarsi in momenti precisi della giornata o insieme, sono tanti e diversi, con infinite combinazioni. Ma noi per comodità li liquidiamo descrivendoli con un generico o mal di pancia. Allora, se la pancia è il vostro tallone d'Achille, perché ci raggiungerà tra poco la dottoressa Beatrice Salvioli, gastroenterologa di Humanitas e ricercatrice all'Università di Bologna. Siamo quindi in ottime mani. Noi adesso però andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Vi invito a comporre il nostro numero verde 800 24 00 24 e noi vi aspettiamo qui. cuore e denari. C'ho la pancia gonfia. Si è mangiato la trippa del signor Centocelle e questo è il risultato. Poi il signor Centocelle è romano. Teniamo il vicino romano, io non mi mangio la trippa. E come faccio, maggiore dei carabinieri, con la pancia? Borbotta si irrigidisce, si gonfia, duole e spesso non sente ragioni. Come anticipato, oggi parliamo di pancia. In questa ultima settimana, Deborah, sorvegliata speciale a cuore denari. Nel corso della puntata vi parleremo anche del nostro progetto Meno Pancia Più Salute, un programma di 4 settimane ideato dal team del dottor Attilio Speciani per ridurre il girovita. Abbiamo avuto un'adesione straordinaria, al di fuori dobbiamo dire, confessare, di ogni previsione, ma molti di voi sono rimasti esclusi proprio perché ci hanno mandato le iscrizioni fuori tempo massimo. Allora, bene, sappiate che a Cuore Denari diamo sempre una seconda chance, restate, capirete. Delle dimensioni quindi della nostra pancia ci occuperemo, ma dopo. Adesso parliamo dei segnali che ci manda e che interpretiamo, specie se durano a lungo e si ripetono, come sintomi di disturbi tra loro molto diversi. Li passeremo in rassegna e poi con l'aiuto della nostra esperta troveremo cause e soluzioni. Intanto buongiorno e bentornata la dottoressa Beatrice Salviò, gastroenterologa di Humanitas e ricercatrice all'Università di Bologna. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie Nicoletta. Siamo pronti. Allora, il mal di pancia è un disturbo che può mettere in difficoltà sia il paziente che col problema ahimè si confronta, che il medico che deve interpretarlo e curarlo. Questo capita in parte perché a mettere in crisi la nostra pancia ci possono essere tante cause diverse, banali o molto importanti, ma anche perché non sempre noi riusciamo a descrivere bene il problema e per il medico quindi questo può essere una difficoltà, no? Può essere difficile risalire alla causa. Parlo al singolare, ma forse, dottoressa Salvioli, dovrei parlare di cause, usare il plurale, perché spesso sono più di una. Sì, le cause sono indubbiamente tantissime, perché il dolore può derivare da eventi acuti, noi pensiamo alla classica appendicite acuta, oppure un dolore sordo, cronico, che una persona si porta durante tutto il giorno, che lo può svegliare durante la notte. Poi il paziente spesso non riesce a identificare se è pancia e stomaco, allora si fa un po' di confusione. Finché non si mette la mano sulla pancia del paziente è difficile capire di che cosa sta parlando. Io lo dico perché oggigiorno che tutti vogliono utilizzare le mail per comunicare con i medici senza farsi visitare, questo può diventare un problema. Oggi tra l'altro a disposizione, oltre alle mani del medico, lei infatti ha sottolineato, no? Bisogna mettere la mano sulla pancia del paziente, ci sono anche degli esami che permettono di fare diagnosi, ma in questa puntata cerchiamo di capire qualcosa di più del nostro mal di pancia. Forse non è neanche male e gonfiore che ci dà un po' di dolore, ma il primo passo è imparare a prendere le misure per definire correttamente questo problema in modo di dare al medico l'opportunità di capire meglio la situazione. Allora 800 24 00 24, se siete pancia muniti chiamate il nostro numero verde. Dottoressa Salvioli, l'abbiamo anticipato, insomma non basta dire pancia, bisogna anche dire dove è, quale parte della pancia fa male, in quale parte della nostra pancia avvertiamo tensione, gonfiore, strani borbottii, movimenti, crampi, fitti, e aggiungere dettagli anche sul come si presenta il disturbo e quando, perché anche questa è un'indicazione importante. Ad esempio, dopo aver mangiato a digiuno, dopo l'attività sportiva, a fine giornata, durante la notte. Dottoressa Salvioli, nella nostra pancia sono contenuti diversi organi, quindi dobbiamo un po' usare anche una bussola per capire se è lo stomaco da problemi, l'intestino, insomma, ci aiuti lei a non perderci. Aiuto. Il punto secondo me di riferimento più semplice è l'ombelico. Che è tutto il centro del mondo. Che è il centro del mondo sempre, tutto ciò che sta al di sopra viene comunemente riferito più allo stomaco e a una parte di piccolo intestino, che è quello che congiunge lo stomaco al colon. Quello che sta al di sotto dell'ombelico generalmente, oltre a parte sempre del piccolo intestino che è l'intestino tenue, viene riferito al colon. Poi c'è la parte destra, sinistra, dove ci sono anche però organi a destra, il fegato, a sinistra la milza, per cui ce n'è per chiunque in quella pancia. È chiaro che dare già una collocazione del dove sopra o sotto l'ombelico dal mio punto di vista è molto importante. Il come altrettanto, perché il come è un tipo crampo, è un tipo un ago, uno spillo, quindi certo. È trafittivo, è un'oppressione, è un peso, viene da lì dentro, da lì sopra, da lì sotto. E anche quando, perché il quando, lei ha citato prima il professor Speciani sul tema quindi della dieta, se io ho un problema che riferisco dopo aver mangiato un determinato alimento, è chiaro che il medico è indirizzato più a una genesi dei disturbi da parte degli alimenti stessi. Insomma, rizza le antenne. Andiamo da Enzo da Bologna e poi parleremo del gonfiore. Arrivano già i messaggi 349-238-6666. È sicuramente uno dei sintomi che più ci dà fastidio, perché a volte è una sensazione, un malessere, un non sentirsi a posto, ma all'apparenza la nostra pancia è assolutamente normale. In altri casi invece proprio dobbiamo allentare la cintura, sbottonare i pantaloni. Ma nonostante queste condizioni siano diverse, siamo soliti parlare e descriverle entrambe come gonfiore. Che cosa vi dice questa parola all'800 24 0024? Ci facciamo aiutare dalla dottoressa Salvioli, ma prima diamo una mano a Enzo, che ci chiama da Bologna. Dottoressa Salvioli. Buongiorno. Buongiorno Enzo. Buongiorno. Niente, io ho sempre combattuto col colon, sì. Quindi sempre diagnosticato come colon irritabile. Adesso sono quasi 2 mesi che ho disturbi vari, cambia da diarrea, stipsi, dolore al basso ventre, poi ho a volte un peso come fisso alla bocca dello stomaco che diventa duro, ma questo è un disturbo che ho già avuto, che conosco, solo che non ne vengo fuori perché fermenti lattici, cambiare dieta. Le ha provate di tutte. Vede, dottoressa Salvioli, tutto. Che cosa succede? Lei lo sa bene, perché quando uno inizia ad avere un problema alla pancia, che sia il gonfiore, che la sia la tensione, che siano questi movimenti dolorosi, oppure la diarrea, è difficile arrivare a capo del problema, perché si prova con tutto, di tutto, con i fermenti lattici, si cambia l'alimentazione, ma Enzo è ancora al punto di partenza. C'è da dire che Enzo però ha dato un indizio, che è quel dolore alla bocca dello stomaco. Lo spiego anche perché. Perché chi soffre di colon irritabile, e che una volta si chiamava colite spastica, adesso è più la sindrome dell'intestino irritabile, in realtà è una condizione che è associata spesso anche a dei problemi di gastrite, di reflusso gastroesofageo. Allora, diciamo che se la base è una sensibilità aumentata di tutto il tratto digestivo, noi dobbiamo sempre immaginare il nostro tubo come un tubo meccanico, per cui ciò che non funziona sotto può influire anche sopra e viceversa. Se si ha una riaccensione di sintomi come questa irregolarità intestinale con un dolore alla bocca dello stomaco, non vorrei che il signore presentasse, che è tipico di questo cambiamento della stagione, un problema di reflusso e di gastrite, per cui il motivo per cui non funzionano i probiotici, che sono comunemente chiamati fermenti lattici, è proprio dovuto al fatto che bisognerebbe vedere lo stomaco e curare quello. Perché se lo stomaco non mi funziona, c'è troppo acido, questo va a influire sulla funzione dell'intestino e dare quei disturbi. Questi problemi. Ne parleremo subito dopo il GR insieme alla dottoressa Salvioli. Pancia osservata speciale, a tra poco. Radio 24, Sky 1 e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Cuore e denari. Siamo tornati insieme. Come anticipato, la pancia è sorvegliata speciale a Cuore Denari. In linea con noi abbiamo la dottoressa Beatrice Salvioli e stiamo rispondendo naturalmente alle vostre domande all'800 24 0024. Dottoressa Salvioli, darei subito la parola a Giampaolo da Roma. Buongiorno Giampaolo. Buongiorno. Senta, io ho questo problema. Quando vado a mangiare una pizza, che mangio raramente, oppure un calzone, peggio ancora, ne mangio metà e sono pieno che non riesco più neanche a chiudere. Quindi non deve sempre andare deve andare sempre con un'amica o un amico e fare a metà. Condividere un amico che ha una buona forchetta, così ne mangia una e mezza. Dottoressa Salvioli, spesso quando si ha a che fare con la pancia gonfia si è pronti a dare la colpa ai cibi, no? Ma è davvero così? Cioè, ci sono tante persone che riducono, no? Fanno delle diete molto... Sì, c'è da dire che adesso questo caso del signore che riferisce che dopo il calzone si gonfia... Dopo il calzone deve sbottonarsi il pantalone? Questo è chiaramente un problema di un'intolleranza verso uno degli alimenti, uno delle componenti del calzone. A me viene a pensare, perché la pizza in realtà è deleteria. Non mi dica così. Deleteria dopo i 30 anni è difficile digerirla. Ci sono i latticini, quindi latticini freschi. Noi sappiamo che nelle popolazioni mediterranee più si va avanti negli anni più si perde la capacità di digerire il lattosio. E quindi diventiamo un po' tutti intolleranti. Poi c'è il lievito, poi ci sono le farine, poi il pomodoro per chi è allergico al nickel, per cui c'è un'esplosione nella pizza e tipicamente in molte persone che io vedo da questi tipi di problemi. Da lì poi cosa fanno? Iniziano a eliminare tutto, senza aver capito però cosa in realtà gli fa male. Perché... Ecco, allora cosa bisogna fare per evitare di dover seguire una dieta troppo povera? Perché insomma si vive anche una volta sola, dottoressa Salvioli. Vogliamo vivere bene, ma anche il problema il è che cibo c'è è anche un piacere. E c'è una diffusione via internet su tutte quelle che possono causare questi disturbi, incluso il glutine, quindi mi elimino il glutine senza fare i test per l'allergia al glutine, che è la celiachia. Quindi lo eliminano di default, eliminano le farine, eliminano tutto quello che è compreso nella dieta FODMAP, che è questa dieta che è molto conosciuta dai pazienti che hanno un problema di pancia gonfia, che è costituita da alimenti fermentabili che sono oligo, di e monosaccaridi e polioli, che praticamente comprendono quasi tutti gli alimenti, dai latticini ai legumi, agli zuccheri, per cui diventa un vero problema, anche se questa dieta è suggerita da molti miei colleghi ed è nelle riviste internazionali una grande valenza come trattamento in questi pazienti. In pratica nella dieta dei FODMAP tolgono lievito, latticini, glutine? Tolgono praticamente il lattosio, il fruttosio, quindi tutti i succhi di frutta, gli alimenti contenenti zuccheri che contengono saccarosio, i fruttani che sono nei prodotti raffinati tipo farina bianca, carciofo, aglio, cipolle, topinambur, i galattani che sono contenuti nei legumi, quindi fagioli, lenticchie, ceci, fave, piselli, e i polialcoli che sono praticamente gli additivi. Praticamente non mangiano nulla, zucchero, niente, e non si mangia nulla, contengono questo, per cui cosa che tristezza succede? Le persone stanno decisamente meglio. C'è da dire credo, questo, perché ecco, togli tutti quegli alimenti che producono una fermentazione eccessiva nella nostra flora batterica, per cui togliendole, però non può durare più di tanto, per cui se io la consiglio ai miei pazienti è non più di 2 settimane, perché metti a riposo l'intestino, stai meglio e dopo si fanno tutti gli accertamenti del caso. Ma sono contraria a queste diete fatte in cronico, perché veramente le persone vanno anche giù di testa. Dottoressa Salvioli, per ridurre o prevenire il gonfio addominale si fa ricorso spesso di propria iniziativa ai probiotici, a cui affidiamo il compito di ristabilire l'equilibrio, no, della flora batterica. Sì, ma non sì. sempre è una buona idea, perché in alcuni casi il gonfiore aumenta. E ce lo scrive anche Gabriella, ci scrive: lo yogurt dopo mangiato mi gonfia la pancia, è possibile? Certo, ma lo yogurt non è inteso come un vero e proprio probiotico, nel senso che può essere addizionato di fermenti lattici, di batteri vivi, quando ci è scritto lo yogurt, però in realtà se la signora è intollerante e malassorbe il lattosio, può essere quella la causa. Sì. Quindi diciamo che chi è intollerante ai latticini, al lattosio, assumere yogurt addizionato di batteri o dei fermenti lattici che contengono lattosio può dare dei problemi. Quindi non è una buona idea. In questo caso no. Parliamo anche delle fibre, perché hanno fama di sostanze amiche della nostra salute ed è sicuramente una fama meritata, ma dobbiamo ricordare che c'è fibra e fibra. Molte persone le assumono proprio per facilitare il movimento intestinale, ma in alcuni casi possono peggiorare il gonfiore. Certo. E quindi la stipsi, che guarda caso, no? E poi la ragione per cui la maggior parte delle persone consuma fibre in abbondanza. Certo. Come possiamo uscire allora, da questo? Allora, la prima distinzione fondamentale è che le fibre si suddividono in solubili e insolubili. Sì. Le insolubili fanno tipo la crusca. La crusca in chi ha già dei problemi di gonfiore o sì, di stitichezza può creare dei problemi. Perché questo? Perché se noi non beviamo e non ci idratiamo in maniera adeguata, le fibre cosa fanno? Richiamano liquidi, certo, nell'intestino. E se non viene accompagnato da un'abbondante idratazione durante la giornata, questo crea un blocco. Un malloppone. Quindi, un effetto paradosso che si può vedere anche nei vegetariani o persone che assumono esclusivamente fibre perché non bevono adeguatamente. E quindi invece che far bene fa peggio, perché peggiora la stipsi e peggiora il gonfiore. Quindi le fibre vanno assunte. Ma chi ha un intestino più sensibile deve stare attento a non assumere, per esempio, le foglie a foglia larga, tipo la lattuga. Infatti, quindi, a volte basta un'insalata darci quella sensazione di pancia gonfia. Esatto, chi ha l'intestino irritabile, io lo dico sempre, a mezzogiorno, pausa pranzo, non prendete l'insalata, perché l'insalata vi gonfia immediatamente. Cosa mangiamo a pausa pranzo? Allora, sono preferibili indubbiamente le verdure cotte. Vedi, Deborah lo sa. È preparata. Deborah ci dà delle soddisfazioni, dottoressa Salvioli. Dopo 3 anni che condivido questo microfono con te, ci mancherebbe allora, altro. Allora, verdura cotta, si possono aggiungere un po' di spezie, qualcosa, perché esatto, sennò sono così, no? Nel esatto, piatto svenute mettono tristezza. Oppure, se passato al schiacciapatate, ancora meglio i legumi, perché si toglie quella quota di cuticola, quindi di fibre, che può dare fastidio anche per chi ha i diverticoli nell'intestino. Per cui io prediligo anche la verdura cruda, sì, ma tipo foglia piccola, tipo soncino. Ecco, andate sulla foglia piccola, non mangiate la foglia. Dottoressa Salvioli, io devo salutarla. Lei però deve prometterci di tornare, perché dobbiamo parlare anche di dei dolori, dei crampi, delle fitte. Adesso noi abbiamo la pagina di Denari che ci aspetta. Ci vuole dare però in chiusura alcuni 3-4 consigli per tenere a bada il gonfiore della pancia. Pancia gonfia, che fare? Allora, i consigli della dottoressa Salvioli. I consigli della nonna, prima di tutto, i vecchi consigli sono sempre i migliori. Evitare la frutta subito dopo mangiato. Sì. Perché fermenta. Deborah? Deborah la mangia la frutta. Pur sapendolo, procrastino nel problema. Cioè, insisto. Ecco, bisognerebbe un po' lontano dai pasti. Okay. Bevande gassate, via, proibite. Sia l'acqua gassata, ma tutte quelle che contengono gli zuccheri, perché gli zuccheri fermentano e quindi si rientra sempre nel solito discorso di fermentazione della flora batterica e il gas contenuto nelle bibite gonfia. Terza cosa, evitare le chewing gum. Cioè, perché continuamente mastichi, allora, butti giù aria e la pancia lievita. Esatto, sono tutte chewing gum senza zucchero, quindi con gli additivi, quello che rientra nei cosiddetti FODMAP. Che lievitano, per cui si ritrovano delle pance incredibili. Chi è intollerante ai latticini, evitare tutti quelli freschi, quindi dalla ricotta, latte, le cose più buone, che tristezza. E poi la cosa fondamentale è mangiare lentamente. Masticare a lungo. E non davanti al PC. Non davanti al computer, non rispondendo a delle mail, è tutto. Cosa che nessuno fa, ma...